nome in piazza, dei croci, come vai a saltare e girare a tanto buio, un casino. Avanti, Antonio Giuseppe. No, ma io ce l'avevo già pronti già, non è che mi sono messo a fare, ho detto uso questo, intanto sono radio vintage, poca potenza, eccetera, li uso, e invece come sono andato ad usarli hanno problemi, capisci? Sono spezzoni vecchi che avevo nel cassetto da tanto tempo, tutto qua. No, quindi mi sono rotto la palla e taglio un po' di tutto. Adesso me li sono fatti nuovi, però mi dispiace perché ho usato PL buoni che posso usare per altre cose, capito già? E invece te lo ricordi quando fischiava il microfono? Quello lì ci aveva le piedi di quelli corti, di quelli che non si possono aprire. E praticamente erano quelli che ridavano tutti. Adesso gli ho tolto tutto quanto, gli ho tolto tutti quanti gli ispettori che stavano difettando. Adesso li rismonto con gli ispettori, li tolgo insieme perché sono di quelle macchinette. Mentre stavi parlando ho cambiato, questo è l'Intec 31, non vedo la sigla, sì, 3104F, ok, questo, i microfoni sono sempre uguali, quindi la modulazione non cambia, sono tutte 5 MB+5, e niente, spingi anche questo, già va bene. Hanno tutte tipiche diverse, ma sono tutte belle le altre. Sì, più o meno sì, perché uno c'è una capsula diversa dall'altra, però la timbrica è quella, è già spinge, già va bene. Avanti lui, mi ascolti bene con l'Intec. Col microfono famoso. Sempre quel microfono là, sempre quello. Ed è quello che mi piace più di tutti perché cazzo, è una cosa allucinante. Proprio muovi appena più e va in blocco. L'altro, gli altri devi tutti spingere a forza. Perché ne ho fatto quella modifica? Lo so, però volevo farlo anche agli altri, cazzo. Quello è uscito veramente una canonata. Cioè questo è uscito veramente una canonata, va bene. Luca Rie. Ehi Gianni, cazzo, devo rispondere, ma se riprende Gianni, ti ascolto bene anche con questo. Appagato, tutti uguali sono, dai. Tutti uguali, già va bene. Ottimo quella. L'hai visto già quel microfono della Precipson? Ma è una cosa, ma sai quanto è bello? In foto non lo vedi bene, ma lo sai quanto è bello? È tutto in tutto cromato, infatti ti ho mandato il lato, no? E poi davanti è praticamente in legno, la base in legno col PTT tutto nero, ma no, bello Ma insomma sei riuscito a farlo andare qui, perché la roba non lo mandava, tu sei riuscito a farlo andare. Sì, è la radio che non serve quella, Roberto. Microfono a canonata. Microfono a canonata, va molto molto bene. Abbiamo provato con Luca, ma bene veramente. Infatti adesso tolgo quello spinotto che c'è. Io l'ho lasciato per farlo provare a Roberto. Ci metto un connettore a 4 e lo provo con queste radio qua che c'ho io, col DAC o con questo, con l'Intec, con l'Innovit, con lo Standard, che hanno tutte le connessioni a 4, capito? Ma benissimo, è la radio Roberto che c'ha qualche problema. Non esce manco un microfono normale, giù, è originale. Magari non si adatta quel microfono, però il microfono se va, c'è poco da fare. Però lì magari va bene sull'Intec, sul Galaxy, si può provare sul Galaxy, se va bene. C'è da cambiare le connessioni. No, ma non va bene proprio la radio già, perché io l'ho portata qua, non va bene, anche col microfono normale, non spinge. La modulazione col microfono normale è più bassa del solito, capito? È vero, si può aumentare la LC dall'interno. No, vuole toccarla lui, ha detto che la lascia originale, e allora non so cosa dirti. Ma almeno uscire, no? Scusa, uscire come si deve. Ma infatti, cioè, se vai di radio vintage a Buenos Aires, io perché le sto mettendo, sto facendo una base vintage e ogni radio c'ha il microfono da tavolo, non ce n'è manco una col microfono normale. Però c'ho la commutazione, tutta l'alimentazione diretta, sono tutte attive le radio, sono tutte funzionanti come vedi, escono bene. Lui non la vuole toccare, all'Intec che qualche ritocchino gliel'abbiamo fatto, però almeno adesso esce bene, capito? Non ne ha problemi. Magari non sarà fatta tutta la radio, anche tu di tipica. Luca, avanti, Antonio Giuseppe. Claro, che va già, devo dare anche un'occhiata alla ghissa, capito? Già l'ho capito, infatti ho rilanciato Antonio Giuseppe, ma non sempre c'è da andare vicino, a fidare la leva dalla pillella, era claro. Sì, sono andato a prendermi un po' l'acqua. Antonio Giuseppe, ma mi ascolti il tuo socio? E la potevi fare la Antonio Giuseppe, che tra la pillella era della pigliata. Non è più chi, me ne avevamo cercato la fontana, che vivia nel gruppo. Perché sto usando il baracchino, Anto? Sto usando un Inter che è 294 anni 70 col microfono di tavola, mi ascolti? Ma attaccato! No, 8 watt c'ha questa nella radio. 8 watt, e io non ci tocca nuda, così me l'ha data Gianni Capri 2 e così l'abbiamo fatta, nuova nuova, frontalina nuovo, 8 watt c'ha. Questa è quella che mi piace di più. Questo è l'Inuit, 294, base, la conosci, nuova, nuova, è diventata un gioiello, prima non mi piaceva, la verità. Infatti non lo tengo neanche di scorta a qualcosa, l'ho messo dentro l'armadio, capito? Lo stavo buttando, già ho detto, no, buttare non si sa mai, vabbè, l'ho messo dentro l'armadio. Questo è 294, 8 watt modulati. Ehi, ehi, non riesce bene, esce meglio delle altre, come radio... Mi piace di più la timbrica, non è che i dati escano male, però questa qua mi piace di più come timbrica, anche più del DAC mi piace. DAC, ho sbagliato a dare il tane più 3 perché mi si è attaccato le balle, un amico gli ho fatto. Se no il DAC, il microfono suo è il tane più 3, però sai qual è il problema, già che io spingo troppo di corde vocali ed è troppo forte, troppi acuti, già mi capito. Mentre questi MB più 5, avendo i toni, funzionano meglio. Ma veramente il Siderick è quello che c'era stato di più del tane più 3. Perché io l'ho sentito a parte il tuo CD di che usciva, ma sembra un apparato di amatore, che apparato stai usando? Qualche apparato di amatore? No, c'è un baracchino, quando giocare a casa giuria, e cos'è questo lineare? E poi ho visto il microfono attaccato, ma un baracchino gli abbiamo detto, un baracchino, è questo baracchino, asciugando il vento. Mettono voi uno, ne ho due, uno mi ha levato, però c'è la mano con la stonta, ma come fai che qui detto no, non lo più. Registrato il break, hai sbagliato già, hai sbagliato perché era una coglionata, una stronzata, guarda, una stronzata. Io sono andato a Fusaro, ho smontato il potenziometro del pomellone e gli ho messo il potenziometro nuovo che si collega poi alla ghiera interna della commutazione dei canali. Ed è nuovo, nuovo, nuovo, nuovo, guarda, non c'è un graffio. Pomellone bello lucido, bello dritto, non c'era niente con la radio. Gli ho messo tutte le viti nuove nere, tutte nuove nere, uguali a quelle che erano perché erano vecchie, piatte così come erano, le ho comprate da Bricome, tutte le rondelle cromate nuove, ma è nuova, nuova, nuova di pacca. Avanti Claudio. Manda, manda, le voglio vedere anche io le radio. Ma che microfono è? Ah, quello che mi ha detto. E che cosa c'ha questo microfono? Ho capito. Avanti, Antonio Giuseppe, lo senti i muros? E chiodo al diritto. E io? Ma mi chiama le giardine di nuovo. Oh, io non conosci più a nessuno, tu sei Vincenzi, Antonio Giuseppe. Io sono sempre giovane, sono l'esterno giovane. Mi chiamavano Gianni il Caldo. No, c'è Gianni il Freddo. Non penso brutto, sono così africano. Sono caliente. Caliente, sì. Calata la temperatura, caro Gianni, calata. Stranamente, a te mi dice, bei tempi, quando ero dentro lo stabilimento, no, andiamo avanti, passiamo a Gattati, con la bandina, della Zan Progetti, anche di Breci, tutto gratis, Sono i soldi che, davvero, i soldi che ho guadagnato dentro quello stabilimento, una cosa impressionante. In tre di Romanzano, Arigetti, esci la gira Arigetti. Ciccio Maria Garaga, per carità, guarda, tra lì e la Saras a Cagliari, una barca di soldi veramente, ma no a dirlo scherzando, una barca di soldi, io la Saras e Antò, sono riuscito a prendere stipendi anche in lire di 2 milioni e 800 mila lire, 2 milioni e 9, anche 3 milioni e 100, fatti Rugonto. una cosa impressionante, nel 1991, Michele Anedinami. Beh, contro i meccanici c'erano sempre più alti, eh. Oh, ma noi, io vabbè, ero con la Zan Progetti, quindi era un contratto a paga globale, perché era così allora, quindi prendevo un sacco di soldi a ora, capito? Un sacco di soldi. Era così, Gianni mio, ma guarda, io ho una cassetta, una valigetta che ho sempre conservato, si leggono poco perché oramai sono cazzo da 91 al 96, poi nel 96 sono entrato a Lesa. Cazzo, ma tu devi vedere con le buste paghe, piscio Maria cara, straordinari mi fazia, ma tu attenamente più di l'orario di Travaglio a Radì. Ma tu l'hai conosciuto un certo Franco Sasso a Lesa? Travaglia vacca. Te lo metti? Pisciuga. Arriviamo a fine anno già. Ho fatto Giuseppe, pisciu Maria, due di Naggio, quindi ascino io. A gennaio le lacrime, cazzo, perché ce li toglievano. E vabbè, ma c'è altri dicesimo, quattro dicesimo, tutto po'. Oh, c'è altri dicesimo, chi ce l'ha fatti? Cosa? Di stipendio, perché c'avevamo anche il premio produzione, c'avevamo reperibilità, e noi stavamo a casa pagati con la reperibilità, hai capito? A casa pagati, 80 euro al giorno, fatti il conto, 80.000 lire al giorno, mica le dinamiche già, sto dicendo, era una cosa impressionante, io mi sono comprato la casa in un anno, la prima casa, quella del nono piano, in un anno me la sono comprata io, quando ero a Cagliari, un anno ho preso la casa. Figura di due, se ti sto dicendo stipendi da 2 milioni e 8, 3 milioni e 100, capito? In più mi pagavano anche la benzina, perché io c'avevo la tempra allora, la benzina, poi avevo preso la station wagon a gasolio, e mi pagavano la benzina da Sassari a Cagliari, da Cagliari a Sassari, capito? Quelle erano pazzi, e allora erano pazzi, poi è andato tutto in cataspascio. Ma infatti sto dicendo bei tempi, ti vogliavo andare a lavorare veramente. Io c'avevo la casa, io non viaggiavo tutti i giorni quando ero a Cagliari, forse sì, ma quando ero a Cagliari io non viaggiavo, partivo lunedì mattina alle 4 e mezza, alle 5, perché alle 7 e mezza dovevo timbrare, mi prendevo un po' di ore, mi fermavo a Basanta a fare colazione eccetera, e rientravo poi il venerdì sera, quando uscivo il venerdì sera alle 4 e mezza, senza straordinarie, senza nuda, a volte anche alle 2:30 ci facevano, chi era di fuori ci faceva partire il direttore, capito? E c'avevo la casa, e pagavo 300.000 lire al mese, ma non mi pesava manco per le palle, nulla, e fissi che non fazia mica si aggaggia, Gesù Maria Gara. Avanti Antonio Giuseppe di Soso, Santiago 9, sì, la ti tengo. L'avevamo fatta anche a noi, al magazzino centrale, bastardi, cazzo. Al magazzino centrale dove ci vedevamo spesso, l'avevano fatta anche a noi, a me e a un altro mio collega, la mazza che viene in varia, cazzo. Ma chi c'era? Era i muffinatori che faziani, dall'ufficio personale, cani molti, cazzo. Avanti già. Ehi, ehi, vabbè. Lavorava anche mio cognato, mi eravamo tutti. Raccidevo tutti. Quando mia papà era davvero, lui era il carpentiere in ferro. Sì, ma la Cimimo Tubi era una ditta esterna, io e Antonio Giuseppe eravamo interni, Enichem, capito? Io addirittura ero Zan Progetti, quindi ero gruppo Eni. Capito già, Cimimo Tubi era una ditta esterna, Cimimo Tubi, tutte quelle che c'erano erano tutte ditte esterne. Noi eravamo i propri dipendenti Eniche. Mamma mia come sto. E Anto, e Boni, pasto, ti rivendici o andate a mangiare? Niente romita all'UCM, Santa Antonio me. No, ma quando facevamo i turni, perché poi io sono uscito dai turni, ci davano la busta, no? Quindi era Rudduno, la Cimenta, lo cioccolato, chissà roba, non te la raziani. Sì, no, vabbè. Io ci avevo due volte alla settimana la reperibilità, quando ero lì all'impianto del carbonile, stavano facendo l'impianto del carbonile e poi l'hanno praticamente, no, non è stato mai usato, miliardi, e poi poi non l'hanno mai usato. Vabbè. Avanti Giannetto. Giannetto di Pirri. Sì, vabbè, anche io ci ho dovuto entrare. Via la... Ero qui, a fallito. Avevo fatto le prove, tutto quanto. Mi avevano dato la risposta affermativa e poi hanno chiuso. Hanno chiuso i battenti, quindi... Diciamo, praticamente non sono mai entrato. Ma Cimi? Cimi Montubi? Io praticamente ho fatto le professionali, ero saldatore elettro ossia cittadinico. Sono andato a fare le prove, però io ti parlo che a scuola quando facevamo le saldature facevamo su piccoli punti, roba del genere. Lì mi hanno fatto saldare con elettrodi da soldamento, con il Citoflex, poi mi hanno fatto fare la saldatura all'americana e tutto quanto. Vabbè, comunque sono andato bene, solo che c'erano le moto saldatrici, ero abituato a usare la saldatrice elettrica a scuola e praticamente si sono avvicinati dei saldatori, mi hanno spiegato come la dovevo regolare per non farmi sbagliare, là. E io mi sono avvicinato, gli ho chiesto come era la regolatura che bisognava fare sui macchinari perché non li avevo mai utilizzati. E niente, mi è andata bene, mi hanno preso, mi hanno detto, mi hanno confermato tutto, solo che io dovevo essere diplomato per fare questo, per entrare in video, e gli ho detto che diploma ancora non l'avevano dato, però in effetti ancora non avevo finito a scuola, era la fine dell'anno e dovevo darmi il diploma alla fine dell'anno, non l'avevano ancora dato, io l'ho fatta la prova prima di diplomato. Gli ho detto che me lo dovevano dare il diploma, ecco, gli ho detto, vabbè, come c'è il diploma in mano, si è assunto. E poi, sì, il diploma me l'hanno dato, però hanno licenziato anche a mio cognato, perché infatti poi è andato alla SI a lavorare. È grande azienda la Cimi Montubi, anche mio cognato ha lavorato alla Cimi Montubi, però è andato subito all'estero, capito? Ha lavorato all'estero, Algeria, Arabia, Marocco, un sacco di cose ha fatto. Io ho mio cognato che è supervisore della Saipem, che è la più grossa che c'è, ed è vicino ad Algeri, proprio vicino ad Algeri, stanno facendo il metanolotto. Il massimo livello che c'è del, perché era ed è ancora un grandissimo tubista, quindi ha fatto molta strada con la Saipe, molta strada, un supervisore, mi pare che guadagna, allora, una volta lui stava con la mia sorella, perché sono quelli che abitano al Alghero, allora Rocco guadagna come stipendio, prendeva o prende, non lo so, comunque, sugli 8.000 euro puliti, manda a casa, più c'ha altre 2.000 euro di incentivo per stare lì tutto il mese, capito? Sì. Vabbè, lo so, ho anche degli amici che lavoravano sui salatori, sulle piattaforme, quelli che si trattano come male. Sacrifici sono. No, io con la Saipa inizialmente ero al magazzino centrale, ma con la Saipa che avevano progetti al magazzino centrale, poi mi hanno spostato lì al Carbonile perché c'era appunto un altro magazzino da tenere tutta la cosa, poi facevo in pratica, giravo per i vari punti accantierati e facevo le radiografie proprio a dei saldatori e seguivo tutti, avevo l'incarico praticamente di seguire tutte la carpenteria che arrivava con gli articolati, capito? Quelli da Zara, della Tirso, di tutti gli articolati che arrivavano, tutti gli articolati, oltre mare arrivava, tutti, prendevo il packing list, controllavo tutto se il materiale era tutto a posto, facevo smistare tutto, poi c'era il carrellista, il gruista che spostava, faceva, quello era quello che facevo io, lì al magazzino della Zamprogetti dove c'era il carbonino. Va bene. Avanti Antonio José, io altri 5 minuti poi vi lascio che me ne esco un po' col cane, visto che ancora non sta piovendo, perché da stanotte inizia a piovere, KK. Guarda, di nomi non me li ricordo, però uno solo me ne ricordo e non ed è mio cugino in primo grado, e lo sai chi è? Salvatore Barracco, il più grande argonista e saldatore, penso che ce ne siano pochi. Tu immagina che lo chiamavano da tutte le parti, in Italia e all'estero, e si vindia. C'era saldare questa cosa, piattaforma, questo serbatoio, finirlo in quanto mi dai? Faccia il prezzo, voglio 30 milioni per quanto tempo ci vuole stare, un mese, 30 milioni, vi va bene? Ok, venga i soldi. Ma di chi si così? A Rosina che tanto cazzo ci rifurava? Allora, per quelle che seguivo io, nel senso che collaboravano con noi, con la Gran Progetti, secondo me i migliori saldatori Porto Torresi li ha avuti la SACEM. Bravo, sì, la Cosmi, bravissimo, la Cosmi, cazzo roba la 32, va via di gru, sì, è la Cimi, sempre la Cimi Montubi. Però io quando sono arrivato a Porto Torres, da Cagliari, c'era molto in voga la SACEM, hai capito? E molti saldatori, e tu lo sai, della Cosmi e della Cimi Montubi, erano passati alla SACEM, quindi ho conosciuto quelli, però ne ho conosciuto anche della Cimi e della Cosmi, anche se poi la Cimi Montubi praticamente è andata via da Porto Torres, è rimasta solo la Cosmi, però con la Cosmi faceva più roba di carpenteria, hai capito? E quello era un gioco un po' che facevamo tutti, Arturo. Era così, però non c'era malizia, non c'era niente, capito? È chiaro che quando tu c'hai una linea di tubi e li devi saldare in opera è una cosa, e tu lo sai, capito? Un'altra cosa è quando stai saldando girevole, allora è diverso, perché a chippi di più l'elettro vai andare a vinica che buffatura ti avvasi, capito? Però quando in opera, io ne ho visto saldare in opera di saldatori della SACEM, che erano una cosa spaventosa. Uno di quelli era Tore Soggia, che mi pare visi ancora, no, forse è già andato in pensione, e quello, come si chiama? De Muro, Rodurino, quello che giocava col Porto Torres, quello è molto bravo me come saldatore, conosciuto lei già Rodurino? Può darsi che non conosca, ma il nome non dice niente. Vabbè, comunque la Cimi Montubi normale non pare essere bravo, facevano tubazioni che andavano sott'acqua quando non arrivavano le gasiere eccetera eccetera per far passare il gas sottomarino, proprio sott'acqua. Già, io ho lavorato alla Saras, fate il conto. Ho lavorato al pontile per 2 anni della Saras, arrivava la San Colina, la Prima Rosa, la Rettina, petroliere enormi, da 300 metri di lunghezza, che non ti dico quante tonnellate erano, quindi so perfettamente, io ho lavorato fino a 72 pollici, non sai cosa sono 72 pollici, quante questa stanza sono, per frangiare 72 pollici la gru prendeva col gancio da una parte e col gancio dall'altra per appoggiarla, cazzo bulloni, chiave a battere da 60, cioè roba da ammazzarti, da scendere le braccia, capito? Quindi proprio per sfrangiare, per collegare le manichette alle petroliere, capito? Perché eravamo pagati bene, perché c'era un lavoro micidiale, era una cosa impressionante. Poi quando sono arrivato a Lini, che diciamo che non facevo la pacchia, ma quasi, ero usato in Giuseppe, ero sempre in giro, una banda, dentro lo stabilimento, a grattarmi le balle. Vero Anto? Claudio. Tu. Quando noi abbiamo fatto fare la prova per vedere se potevano assumervi o meno, abbiamo fatto fare la prova pratica, prima teorica, poi pratica. E mi hanno fatto saldare un tubo che dovevo salire con la scala per saldare, un tubo che ci stavano due persone dentro, uno sull'altro. Immaginate tu cosa mi hanno fatto saldare. Mi hanno fatto usare il direttore da sfondamento che io non avevo mai usato, per dirti la verità, a scuola, non ne avevo mai usato quei direttori lì. Il Citoflex, non so se tu li conosci. A voi li conosci il Citoflex. Tu immagini gente che i saldatori che c'erano a Cagliari saldavano col 4,25 a Citoflex. Infatti lo conto, cazzo, ogni elettro lungo un metro, più mano di Rodac, ma grandi, enormi, per accoppiare i tubi o le frange o le curve a spicchio eccetera, la gru gliela appoggiava e poi saldavano i tornichetti, lo sai cosa sono i tornichetti, sì, lunghi quanto è questa finestra, da 1,20 m, 1,50 m, che dovevi per tirare il tubo poi, e oh, io santo Antonio mio, paranco, ma non paranco, vedi di buco, tubi da 2 metri, schedula 40 di ghisina acciaio inossidabile, se no si piegava. Lascia perdere già, che ne ho visto, ne ho fatto e mamma mia, non voglio più tornare indietro. E se sono così a pezzi è proprio la schiena che si è abbattuta quando ero giovane. E adesso che ho 60 anni ne ho risentito parecchio, parecchio, parecchio. Vero Anto? Vabbè, tu non fai tenuti anche via VCM, cosa fa di? La vai fai la pioffere. E allora, se ne tiamo a piovere, no, non me lo dire. Sì, sì. E lascia piovere, lascia no. Io l'ho fatto la macchina lui, la macchina non gli va. Ehi, guarda, l'ho notato che a Giuseppe arriva prima 8, poi 7, poi 8, poi 7. Scordate come è stata questa. A pezzi si è arrivato a 8, a pezzi si è arrivato a 7. È strano. Vabbè, forse anche come, se non so se ci sia vento. Comunque già ti ascolto bene lo stesso, non c'è problema. E lo so, ti risento. Basta dire nel telescurio che mi entravano saldato, faccio le soldature all'americana, le scurie che mi entravano dentro il petto, poi più li funzionavo e più ti bruciavi. Perché era sempre attesa la scuria e più cercavi di prendere le cose, più bruciavi di... Allora, l'elettro lo era. Se no ti canto da zia anni che si goce in piedi, che si grembiuli in piedi, e a maggio volato una due per farmi le cinghie. Buonasera, Fortunato Lacchi, avanti, cambio. E a Fortunato, beh, io già ti ascolto, anche se sono con la radio piccola, però ho un'ottima ricezione, ti ascolto tranquillamente. Buonasera, ben ascoltato, c'è in compagnia di Gianni, Antonio Giuseppe, noto Falconero di Sorso. Lasciatelo uscire dalla zona d'ombra o già e poi lo rilanci, ok, che intanto io mi inizio a preparare perché davvero sta iniziando a piovigginare, ok, riprendi già. E io l'ho sentito all'anno, certo riprendi, quella parola lì l'ho sentita, poi il resto mi sbigliare, ma non capivo cosa diceva. Lacchi, mi ascolti? Ti ascolto passo passo, dai, c'è Santiago 1, livello 2 RM, non so se è Luca che ascolta, Luca non risponde, Antonio Rosero ascolti all'Acchi, l'Acchi, camionista è fuori Sassari, dai, che sta parlando, non so dove si trovi, sarà Campeta, roba del genere. Dove sei l'Acchi? Non ti ascoltano? Campomera già. Sarà Campomera. Ciao comunque Fabrizio. Ciao, ciao a tutti. Siamo quasi rientrati. No, sto facendo alcuni collegamenti da un'altra parte, già però stavo ascoltando e ho visto che è Campomela comunque. Sì, volevo dire Campomela, vabbè, ho immaginato che vivi là. Lacchi, mi ascolti, io sei in galleria. Lacchi, lo ascolti a Gianni doppio room? Sì, già, ti ascolta, già lui già ti ascolta, Lacchi, magari tu non lo senti. Io lo sento passo passo, mi è ritornata la voce, lo sento passo passo, livello QRM, magari qua è una negativa, non lo so. Dai, riprendo io, ciao Fabri, io vi lascio che devo andare. Ciao Fortunato, 5-9, ma ti sentivo bene anche poco fa, nonostante sia col baracchino, vai. Ciao Antonio Giuseppe, Falconero, ciao Gianni, Luca e tutti quanti, dai. Il cambio per Fabrizio e ci sentiamo, vado a portare il cane che sta più vigilando, ciao. Ciao, il baracchino, ma ce l'ha anche messo con una parcella, via Rubino. Avanti, dai. Fortunati, ha rilanciato Gianni, dove sei, con chi sei, 6x6? Via, va bene, dietro la cimenteria già, no, non vi sente la lira, sente solo me Fabrizio. Ciao a tutti, ci sentiamo, cambio. Ciao, ciao, ci sentiamo, Claudio. Buona passeggiata, vai. Luca, ci sei ancora? Sì, ci sono qua già, abbassa però già un po', sei troppo amplificato, troppo eco c'hai. Guarda se va bene così. E tu, cazzo, beh, un bel secco che è un bel forte, mamma mia. Così bene va, guarda. Facciamo così. Come siamo venuti da me? No, chi è che c'è? Qualche scivolata, qui ci lascia. Cosa, Lu? Chi c'è, Cla? Ho portato a voi due. Ho cercato Giuseppe, io sono tratto a tutti, mi sto vestendo, devo portare il cane. Poi è entrato anche Fabrizio, non so se vuole rimanere. Io devo andare a portare il cane, dai. Pensavo, no, pensavo sta vicino a me a passare, così lo abbasciamo, è buon che in terra. C'è anche Lucchi, è in galleria, lascialo uscire e poi chiamalo, chiamalo, gno gno. Ah, è fortunato là, chi c'è? Eia, eia. Sì, siamo ancora al cazzo, al cazzo, andate al cazzo, cazzo, un po' a cazzo. Sì, che non deve essere uscito dalla galleria ancora. Lacchi, lacchi, lacchi, ci sei. Essere carico, sta andando piano. Eia, Fabrizio, l'ascolto, parti tu, caratteri Giuseppe, avanti. Ciao Fortunato, ciao, ci sentiamo, buona serata, buona continuazione, dai. Avanti Luca. Ehi, ehi, ma sei agganciato già? E c'è un po' saturino, eh. Ehi, ho agganciato, per me se mi senti male. Ehi, adesso va bene, era un po' saturo alla radio. Ehi, vabbè, è avvicinata, tu grido, ma non tanto, già va bene. Fammi già, stavo vedendo, lascia vedere, è tipo il coso, il tognapinco, è tipo il Typhon, si chiama Ulisse, il problema è normale, sei bande, 85 euro. E magari se tu vuoi frequenza, poi rubini ti tocca più di una battuta, lascia finire. No, no, le devo prendere, io non appassiono anche conosco gli apparecchi o li prendo lupi direttamente, se no sono sempre fregature e basta. Lì c'è poco massimo. Oh già, glielo dico a Valerio se sta dando quello che gli ho dato io, nuovo, 3009 Colt, una bomba, te lo ricordi? Nuovo. Chiedi. Glielo dico perché mi ha telefonato che stava dando qualcosa, capito? Glielo dico, le mando un messaggio se sta dando il 3009 che gli ho dato io. Intanto lui l'aveva messo in macchina, poi l'aveva tolto perché era troppo grande, aveva messo la 48, capito? Glielo dico, quello è nuovo, nuovo, impeccabile. Dipende quanto le vuoi. Già non lo so, io gliel'avevo venduto 250 euro proprio per farlo fuori, se no si poteva vendere anche di più perché è molto meglio dare la 48. Eh beh sì, Già, me ne dai atto, cazzo, non vuoi dare la 48 3009 Colt, no? Quello me l'aveva fatto avere Massimiliano, cazzo, è una cosa, non so quanto ci va bene, forte, vatte, tutto, abbiamo la... tutto va via, tutto, una cannonata, veramente. Io lo dico, se lo sta dando ti avviso. Già il 3009 esce bene normale, figura. Già, se ti sto dicendo io chiudevo l'eco e col microfono normale sembrava, con la mia voce sembrava che stavo usando un amplificato. Come l'amplificato tu? Bene vanno, sono dei baracchini che vanno molto bene 3009. Lucky, ci sei Lucky? Sì, che c'è Luca, gnogno, Luca, mia Lucky. Eccola! Cazzo, vuoi giocare la nota di 50 cazzo? Disgraziato. Quanto lo fa bene, lo conosco chi è quello lì. Cazzo quanto lo fa bene. Agamino Pignimonio. Guarda, ma va bene, c'è un cazzo di gallo, cazzo, ma ci sono come i nomi, cazzo. O sono a cazzo. Lacchi. Ehi, già. Dove sei? Qua di fronte all'ufficio delle entrate, se mi serve qualche cosa ditemelo. No. Lascia qui. Beh, Fortunato rientrando, dove vedi a Cagliari? Eia, a Cagliari. Cavolo, la passeggiata. Sì, 12 ore sono oggi, dai. E dove sia, dai, che tra poco va in pensione là. Beh, a breve, no, fortunato. Sì, a gennaio, il 15, faccio 62 e ho già preso un giorno di ferie perché devo andare a fare la domanda. Non so mai che mi cambiano le carte in tavola. Basta, boh, finito, boh, non vuoi di più. Sì, cazzo, 41, vado con 41 e 7 mesi. Se ti chiamano magari per farti qualche giornata, non ci vuoi di più. No, finito, non mi cerchino perché non le palle in terra lui. Allora, le patenti allora? Le patenti, lui mi prendo, mi lascio la B, la B, quella della moto, vabbè che non sono appassionato di moto, però ce l'ho. Vabbè, la B è normale, no? Se no poi come fai a spostarti? Sarebbe il colmo del colmo. Mi, ma chi è? Chi è? Ma chi è? Ma come la mamma già ancora, sei minorita. Comunque fortunato, mi hanno bloccato per una settimana. Perché ho messo quel video che quel tipo ci voleva insegnare a noi sardi come la facci. Però io l'ho commentato in un altro video che ha pubblicato questo tipo, che ha scritto ammazza di Sassareso, mi hanno bloccato per una settimana. L'ho letto. Però non pensavo che era riguardo a quello che mi stai dicendo tu. Purtroppo sì, vabbè, pazienza, dai. Se tu va bene, venerdì mi sbloccano. Sì, lui, sì, mi piace Napoli. Tanto visto che Facebook è tutto un altro mondo. Sì, vabbè, giusto per scarteggiare, dai. Ma non è che mi fanno comandare il coso, dai. C'ho un gruppo io, quando scambio, ma non è che quello lì mi fanno approvare i post. Va bene, avanti Gianni. Cos'è che stava segnando questo qua la faccia? Ha fatto un video, c'è ancora nel mio profilo se controlli già. E praticamente ha scritto che ci insegnava a lui come la faccio, una saponetta già consumata, chissà cosa ne ha fatto questa saponetta. E a noi sardignoli, capito? E basta. Ora c'è mezzo acqua. Ma lo fanno apposta per provocare, non bisogna cascarci queste cose, ci sono qui, lo fanno apposta per scaturire, diciamo, reazioni da parte di sardi, roba del genere, poi ci sono state quelle che hanno detto che i sardi non sapevano fare un cazzo, questo e quell'altro, che non lavoravano e non lavoravano in fabbrica, questo e quell'altro, hanno detto poche di cose. Per far scaturire qualche problemi nelle cose, nel sito e cose, capito? E la gente si incazza e vedi come hai fatto tu e ti stavi con tu vuoi. Mi stanno con tu vuoi, mi hanno bloccato per una settimana. Ma non c'è problema, abbi le luci. Ti ha bloccato Facebook? Sì. Tu conta che io ho altri account, io ho 5 account in tutto, anche gli altri mi ha bloccato, allucinante. Vabbè, che con un altro account. Mi ha fatto uno nuovo, con un paio d'ore che poi me l'ho bloccato. Ti hanno sgamato. Ah, Luca, tu a lui hai segnalato l'hai? No, perché l'hanno... A lui l'hanno segnalato comunque sì, l'avevo già bloccato. Poi si è rifatto un altro account nuovo e ha pubblicato questo video. Però chi l'ha pubblicato questo video? Un altro tipo ancora. Io in genere quando si comportano in una certa maniera, allora li segnalo e poi li blocco. Finito. Vabbè, fortunato. Anche come dice Gianni, lo so che lo fanno apposta per farci incazzare, per fare cosa adesso, un numero là, per vedere come la nostra reazione, ma non fa, per carità. Capo, già lo so, poi tu ci hai visto che io ho vari gruppi che parliamo sempre di quello delle camionette. Io ti saluto, ciao Gianni, salutoni che sta arrivando qua il capannone. Ciao Fortuna, ciao, buon rientro a casa, dai. Ci sentiamo alle prossime, avanti a chi tocca. Ciao Fortuna, dai, buon rientro e buon tutto, salutoni in casa. Alla prossima, ciao. E adesso non è come un quarto, me lo vedi. Purtroppo devo scendere anche io. La portata ha fatto i bisogni. Ma ne ha fatto danno a Bitti, porca paletta, arriva di fango, ui. Poi hanno... sono partiti anche da Sassari, da Liuti, che hanno bisogno di Varecchina, molta Varecchina, e poi non mi ricordo che cosa. Ah, come sa. Ci dovrebbero prodigare i negozi grossi a mandare qualche cosa, stanno aspettando che la gente rifaccia le spese. Sì, io posso fare una spesa, ma questi negozi grossi tipo Coop eccetera eccetera che stanno raccogliendo una cosa, li dovrebbero mandare anche loro qualche cosa, perché loro gliela possono mandare a cartoni la roba, tanto quando prendono la roba gli omaggi li fanno sempre, su per dire una pedana, su 10 pedane una gliela regalano sempre, capito? C'è sempre, loro ci hanno l'intuito in queste cose qua, e possono mandare la mezza pedana di roba. Lo so. Comunque anche da Sassari sono partiti tramite la Copec, ma non la Copec, la Conad. E sono partiti anche da Sassari Soccorso, le ambulanze, con i, sono andati con fuori strada, mi sa, non lo so con che mezzi siano andati, però Sassari Soccorso è presente. E meglio così. E Claudio è andato a portare a Filippo. Già l'ho porti già. Alle 8. Alle 8 vado, alle 8, ho un quarto, vai. Allora lì qui ha pensato così. Ho capito. Un bel giretto ti fai. Se non li va all'aria. Se non sta piovendo scendo via Bologna, poi salgo a Piazza della Meridiana lì. E lui fa se bisogno in questi posti qua, capito? E oramai ha abitato così. Beh, se tu lo porti in Piazza della Meridiana, compro loro, fa subito il bisogno. Se invece lo porti da altre parti, si fa la pipì, però da poco la fa solo in Piazza della Meridiana, perché è abituato a parlare. E a casa te ne fa bisogno già? A casa no, assolutamente. A meno che sia di diarrea che non ce la fa, poverino. Ho capito. E lei è ancora piccolina, però piano sta imparando, vero Dea? Chiede. Saluta Gianni, saluta Gianni, saluta Gianni. Ma saluta Gianni. C'è di merda. Adesso tranquilla, assomiglia molto a Luna, lo sai, cosa devo dire? Sì, insomma, Luna è una barzura. No, perché cazzo, dimmi come viene a pausa il telefono in terra. No, ti ho detto, no, non voglio, no. Cazzo, buona sera, Taurito, no. Qual è la cuccia tua, esci. Cazzo, che giramento di scatto, Basta, vai a cuccia, esci. No, vabbè, già la Luna è la marroncina. Lui è color sul bianco, là, bianco panna. Ehi, ma io sto dicendo il musetto, è preciso. Ah, il musetto sì. Però ti posso dire che Luna è la Luna. Non la cambierei con nessun altro cane. No, Dea, no. Dica musicheggia, gioca musicheggia, fatti male. Devi sgridare, dare qualche colpettino, altrimenti continua. No, ce l'hanno di vizio, quando stanno facendo i denti lo fanno per quello. sono aguzzi i denti, ti fanno i buchi, cazzo. E anche te lo faceva così. Infatti mia madre, cosa vuoi? Ti picchia Gianni. No, mia madre, perché ti fai male. Cata, che mi picchidiale. No, devi salire, no, stai in terra. È più forte di me. Vai a cuccia, là, aspetta già, vai. No, ma vai a cuccia, vai. Cazzo, micidiale, proprio, va, stai lì. A cuccia, la cuccia tua devi stare, no, sopra a me. Non puoi salire qua, cavolo, boh. Micidiale. E invece te ce l'ha pensato così, sta vicino a me, io gli metto la coperta, la letto di sicurica lì e si trova vicino a me. E lei ha già mangiato, gli ho messo la papettina sua, con un po' di crocchette. Adesso si è a posto, fino a domani. Cosa le stai dando? Sono crocchette? No, la pappa umida là, quelle, non secco, umido. Le cartolette già, per esempio a Pasqua lì a... da Plane, come si chiama? Sai quando ci vi a Pasqua? Arca Plane. Arca Plane, sì. Ho fatto anche la medaglietta, con il nome suo e il mio numero dietro. Ah, 12 euro. No, 10 euro e 50. Sì, vabbè, più o meno, vabbè, è fatto bene, perché se si perde, viene preso anche... spettacolare. Poi Luca, se quando cresce di più io ho una pettolina per solo che ce l'hai. No, c'è una pettolina di Dea, ma di Luna, ma però ancora è grande età per lei, non va bene. È rosa. Capaga, ma che senso lo di quando peggio da piccolo, tanto non la uso. Ma dire mai, magari me ne prendo un altro di casa, tanto non mi piace. Sto giù pagato a 20 euro, 19,99. 20 euro. Quella lì non li sai che è troppo grande. Ma va fatto a prendere il veterinario perché c'era il collare e l'una non andava bene. Il sugare era... ma ci mancava un po' di giorni per morire. Cioè per morire. Purtroppo l'ho dovuta fare sopprimere. Lo sai che il collare ti fa venire la cacchina. Sapete? Che tirandola dal collare le fa venire la cacchina e ci vuole la pettolina. Già, se c'è il collarino, poi quando sale metto la pettolina, e se no te la compro, ma poi se cresce non li sa più quella di ricordo. Quella è nuova nuova, a Luna gliel'ho messa tre volte, perché mi stava male. Io ci ho messo le gocce per ti parassitare. Io devo comprare le pastigliette invece, ce ne sono tre e costano 35 euro. No, è meglio esterno, io mi piatto il veleno. E praticamente io glielo metto sempre il 29, ma me li sono dimenticati. Te l'hai messa oggi? Oggi gliel'ho messa. Non ne sono ricordato, se già uno ne abbiamo oggi. Sai, al telefonino ti rendi conto di quanto ne abbiamo, perché io ho messo tutto. Da quando non sto più lavorando ho preso tutte le date, non so se venerdì, se giovedì, ui, non mi sto più interessando. Ascolta, a me, mo te le paghi? Quant'altro lì, Luca, quant'altro lì è sempre, sono 27-30 euro. L'una? No, tre fialette sono. E ne metti tre punti di birsi nel collo e ne fate il gioco, io ne metto tutto l'anno, perché per la lesmaniosi anche, perché le zanzare se la pungono, cazzo, per avere la lesmaniosi, anche i pappattacci la possono pungere, posso far vedere la lesmaniosi, quindi io tutto l'anno gliela metto, c'è gente che gliela mette solo d'estate. Lo so, ci vuole. Bel casino, ma si offendi quello a Rai 3, il controllo del sangue là, per quanto riguarda il virus. Come si chiama quel controllo lì? Cerca un po' l'altro come si chiama. Che cosa? Stanno pungendo il dito per controllare il controllo del sangue. Prelievo si chiama, prelievo del sangue. No? È come la puntura dell'insulina, hai capito? Per misurare la glicemia. Come si chiama l'altro controllo che fanno? Controllo glicemico. No, per quanto riguarda per vedere se sei positivo al virus. Non lo so, te lo so dire allora. Cosa ti stavo dicendo? Non me la metto più. Ah, che bisogna che specifichi sempre che va bene anche per le zanzare. Di modo che se tu glielo metti d'inverno e zanzare lo pungono, non li mangeri nulla. Non ho capito già, scusa. Ti fai male, vai là. E quando prendi l'antiparassitario specifica sempre che lo vuoi anche per le zanzare. Pulci, zecche e zanzare. Questo è completo già. Una pastiglietta gliela dai e ti fa un mese. Poi come cresce mano a mano il cane ci fa una puntura di questa medicina per un anno. Mi sa che costa 50 euro. No, io non li vedo più, io li metto sempre le gocce, le ho messo, va bene così. Non ha mai avuto parassiti lui, mai. No, vabbè, già lei è ancora piccolina, non posso fare niente, capito? No, ma infatti adesso non è il caso di metterlo, non penso di chiedere al veterinario, ma non penso. Però io gli ho sempre dato le gocce, perché quelle cose lì si danno a chi per dire le gocce lo irritano, li fanno perdere il pelo, eccetera. Non ho mai fatto nulla, quindi fanno male le gocce, gli do sempre le stesse, una volta che ho cambiato non mi sono piaciute, non è che gli sia attaccato nulla, però non mi piacevano come, no, non erano di marca, le ho prese da... sono prese da cosa, come si chiama? In via del circolo, da davanti. Ma non mi piaceva. Ecco! Avanti! Papa, buonasera a tutti! Come mi ascoltate? Asino, a tu, buonasera! Buonasera, sono entrato un attimino che poi devo mangiare, sono entrato al volo. Come mi ascoltate di modulazione di tutto? Io devo dire la verità, sempre che era una patata in bocca. Aspetta, Luca, non so come ti senti, prova a vedere, sembra un po' un asino, tu ha fatto gli schifo. Così lo sento, così. Ma vai in ora amara. Vabbè, dai. Regalato me l'hanno, cosa devo fare? Non va bene di modulazione. È accettabile, è un po' nasina, ma è accettabile. Ci diciamo il microfono, chi più vedi come ti anda. Poi poi metti di 1,93 non vedi se va. Per il momento mi devo accontentare di questo. Ok, dai, continuate. Kappa. E comunque già è accettabile, non è che è nasina però, piccola vita. Se vuoi ti registro e te la faccio ascoltare. Vabbè, ma un po' di potenza ce l'ha. Aspetta che provo a togliere una cosa. Aspetta, da così come mi sentite. Ma stai provando infatti o la modulazione? No, sto provando la modulazione, così come mi sentite? Prova a fare un passaggio lungo. 1, 2, 3, prova radio, sempre nasino sono. No, così va meglio. Va meglio? Sì, forse perché è attaccato. Così com'è? Nasino? È un pochino sempre, però prima era più nasino la voce. Kappa, dai. Dai che adesso vado a mangiare, ci sentiamo dopo, ok? Ehi, Anto, non c'è problema. Avanti. Ehi, a dopo, Anto. Ciao. Capo di erogeno, capo di positivo. Oggi ho fame, cosa mangio stanotte? Devo prendere la pizza, ma ormai sta. Kappa, esci là che anche io mi preparo e vado un po'. Non so se stia piovendo adesso. Comunque gli ho messo la cena e la macchina dovrebbe scivolare la più. Sì, tutta l'ha fatta. E allora? Io la lavo. Sono andato perché ad ascoltare il fatto. L'ho fatto tutta quanta, ho messo la cera, tutto quanto li ho fatto. Il lavaggio, prelavaggio e tutti i ballacchi. E così ho passato anche un po' il tempo. C'erano le... vabbè. Questa volta passaci due volte. No, c'erano anche delle belle ragazze lavandoci la macchina. Ah, e vai, la prossima volta pensaci due volte già per passare nei posti sbagliati. A te ci voleva un po' di strada, cazzo di abuso. Meno male che io vado piano, cerco di evitare cose, però cercavo di scaldarmi un po' se venivano più male. C'era la pozza che non si vedeva, tutti paravi giosci. Certo. Sì, vabbè, ma tutto bene ciò che finisce bene, sono andato piano piano qui, sono riuscito ad arrivare alla strada e da lì sono salito al mondo. Vabbè, non ti sei messo, no? No, ma era un bene interno, cazzo, non può prendere la strada fino a fine, proprio stretta. E non mi sono perso, però sono andato intuito, poi per ritornare ho preso come punto di riferimento un segnale che c'era in terra e ho preso quello perché dopo il segnale c'era la stradina e ho preso quello come punto di riferimento e già l'ho trovato subito. Ma male, può fumare, sono le 8:05, casino per me adesso, c'ho fame. Sta piovendo. Piovendo, adesso sono i puntici. Io vedo sarà, ho fatto sotto il porticato, adesso già sta piovendo un po' di meno, ma comunque sta piovendo. E adesso lasciamo calmare un po' e poi andiamo, non c'è problema. Io portarlo devo portare a Ticciolino, vero Ticciolino, mi ci dai avvisato, ha compreso gli anni e ora, vedi? Io l'ho portato anche all'1:30, perché diciamo così magari lo porto più tardi, però lui a quell'ora oramai è abituato. Ho cambiato di nuovo radio già, sempre il stesso microfono, questo è lo standard, l'8001. Come va anche questo, bene? Questo è bello, una bomba. Oh, questo è il microfono tuo però, perché lì non ce n'è. Questo è quello che mi hai fatto avere tu, da, per capirci. Va bene, va bene. Cos'è il microfono della standard? No, no, è della standard, no, la radio è uno standard. Standard, sì, standard. 8001 BX, che pare un HF, è tutto grigio come colore che vuole. Però il microfono è l'MVP5 che mi ha fatto avere Gianni. No, ho capito. Marco Condor ogni volta acquista radio dice, sì, un po' compresso, ma compresso voce, ragazzo va 4 watt. No, non va bene. Per me è limpida la radio. Io già mi ascolto in cuffia, non è che uso le radio così, qua ho fatto la vita, la foto, ho fatto un capolavoro perché praticamente dalla base dove c'ho gli HF commuto e mi va l'antenna su quest'altra base, quindi sono tutti alimentati a 220, per quello io le voglio a 220, perché così non ci sono alimentatori in mezzo alle balle, le antenne sono tutte attaccate, posso usare qualsiasi tipo di radio con qualsiasi tipo di microfono, capito? Io infatti lo stesso faccio così, quando tu mi hai detto che stavo uscendo fuori frequenza ieri, mi sono ascoltato subito sul DAS, io uscivo bene, detto, ma è strano, non è possibile che esca fuori qua si senta bene. Ehi già, lascia perdere, ti ho detto che mi sto rincoglionendo. Mi sto rincoglionendo, capito? Perché non me ne sono accorto, praticamente non c'aveva niente alla radio. C'era il rito inserito, siccome non si accende la luce, perché è una radio vintage, mentre invece negli altri HF, quando accende il rito si accende la lucetta rossa. Lì lucetta non se ne è accesa, c'era il pulsantino inserito e cattederi, boh, non riuscivo manco a trovarti, figurati. Ha detto, ma non lo so dire da Gianni, invece ero io. Vabbè, ti ho chiesto scusa, sono cose che capitano ai vivi. Sì, no, non c'è problema, non mi sono combinato un coin, quando mi dite, toccate, ma non sta bene, mi dice. Luca mi ha fatto una chiamata arrivare a sera, mi stavo trattenendo fino a tardi, provando appunto questa radio, e ho commutato sul 140 e sono passato in FM. Ho detto, Luca, passa in FM a vedere come mi ascolti, che non ho provato questo 140. Ho detto, no, ti ascolto tutto gracchiante, tutto, ma come in traduttino? La matta che te ne vai, Lucariello, che... Cosa devo su base, ti sentivo così, sarà baracchino mio allora. Non lo so. Beh, sicuramente. Sicuramente, vabbè, non è successo nulla, dai, l'importante è che... No, il bello di questo microfono è qua, come lo sfiori va in lock, qua, manco lo sto tenendo, gli altri bisogna a schiacciare forte già, è uscito veramente bene questo microfono. Sono uscito, pronto? Sì, sono uscito qua. Sto facendo il coccole a te, non ti ho potuto rispondere. Oh, yeah. Ehi, no, ma adesso... Guardo, perché questo, e allora io ne ho due con lo strumento giallo e due con lo strumento nero, quelli con lo strumento nero non sono a norma CE, quindi sicuramente la pulsantiera all'interno è diversa, capito? Adesso li controllo domani mattina mi bogio, prendo microfono per microfono e controllo se si può fare lo stesso lavoro che ho fatto a questo, così li faccio leggeri. K. Scusatemi, mi mangio qualcosa, se vado un po' in cucina cosa c'è? No, cazzo, sono le 8, allora io andiamo a mangiare, ancora aspetto un po'. Ci cerchiamo. 8 e mezza, 9 e meno un quarto, infatti tutto pronto. C'è già l'insalata pronta, lo spettatino di cinghiale in agrodolce. Con mia moglie mi sta facendo anche un po' di patate. Un po' leggero stanotte, dai, già va bene. Un burro, con la forchetta lo tagli. Gli ho fatto quasi 20 minuti di pentola a pressione. Un burro, sono le carote che sono sciolte, le carote e la cipolla, un bel sughetto, vino bianco, c'è. E già il burro, se ti piace, io non lo so come me l'ha andata, ti ripeto, anche la lepre così non la mangio. Il coniglio sì, ma la lepre no. Andava, c'è qualcuno che ha salutato a me e a me. Ciao caro, mi hai sentito? maestro Giovanni Gianni intende il Duce. Ciao Bruno, buonasera, mi ha ascoltato sempre io, Claudio Sparviero, il mitico Claudio Sparviero. Ciao utente, non lo senti a Cla- non lo senti? Come mai lui arriva qua? A me non mi sente. Ha un antennino di macchina sul balcone, Claudio,